Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Una sbarbina non la voglio perché, una sbarbina non la voglio perché, solo il fucile porterò con me, solo il fucile porterò con me, e se in battaglia poi io creperò, e se in battaglia poi io creperò, dentro una bara tornerò, dentro una bara tornerò, alla mia mamma fatelo sapere, alla mia mamma fatelo sapere, che ho fatto sempre il mio dovere. Ah, gennaio 1980 fui portato al CAR, centro addestramento reclute di Savona, e ci passai 2 mesi. Pensate, stare a gennaio a Savona, una delle cose più meravigliose della propria esistenza, quelle belle passeggiate per Savona deserta, perché quando uscivano i militari in libera uscita chiudevano a doppia chiave mogli, fidanzate, sorelle, ma anche le nonne, le zie, tutto ciò che respirava, che avesse parvenza lontanamente di carne femminile, e giravamo per questa città come a satanati, a battersi la stecca e a marciare come avevamo già marciato tutto il giorno, per sommo masochismo, perché i militari sono condizionati a fare quella cosa lì, li fanno marciare dalla mattina alla sera, li facevano almeno fino al 2005, anno in cui è stato abolito il servizio di leva obbligatorio. Questa mattina vorrei richiamare l'attenzione i ricordi di quegli ascoltatori di genere maschile che hanno fatto il servizio militare. Sono pochissimi. Quando poi dalla mia città natale mi spostai per motivi di lavoro a Roma, mi resi conto che a Roma nessuno aveva mai fatto il militare. Mi guardavano come un alieno. Come hai fatto il soldato te? Ma che sei matto? Sì, perché era una rarità, devo dire. La mia classe, classe 54, ancora era una delle ultime che gioiosamente aveva fatto il servizio militare, gioiosamente, perché era rassegnata a farlo. Anch'io provai a fare come tanti avevano fatto, di cercare il parroco, il cappellano, il prete, l'amico di famiglia, l'infermiera all'ospedale militare, qualcuno che ti potesse riformare. Non ci furono assolutamente storie, anche il mio difetto visivo non fu sufficiente, tentai di tutto, ma in realtà a pochi mesi dalla laurea dovetti andare a fare il militare, e fu un'esperienza che vorrei raccontarvi. Squadra! Una volta per tutte, in questo battaglione il riposo si fa così. Gamba sinistra allineata a quella destra, moderatamente divaricate, d'accordo? Qui ci teniamo molto, chi se lo dimentica si becca subito 2 giorni di consegna. Squadra! Noi passeremo insieme circa 11 mesi, quasi un anno. 11 mesi possono essere tanti, possono essere pochi, dipenderà soltanto da voi. Questo era il film che, secondo me, in maniera più completa rende lo spirito della naja in Italia, perlomeno lo spirito della naja di quei rappresentanti della stirpe italica che dagli anni del dopoguerra fino agli anni delle prime campagne di pace, chiamiamole così, in cui i soldati italiani sono mossi realmente in territori di guerra, facendo la guerra e lasciando anche la pelle in azioni di guerra, però bisogna dire che erano azioni di pace, che hanno fatto militare nella più cialtrona delle maniere, passando il tempo a spazzare le caserme, a pulire i gabinetti e a raschiare il fondo di pentole incrostate da generazioni. Sì, per quello capì subito che il servizio militare in epoca di pace era semplicemente una maniera per riempire le caserme e accudire la manutenzione delle caserme, che a loro volta esistevano, erano state costruite e stavano in piedi per permettere ai soldati di fare qualcosa. Quindi c'era questa sorta di terrificante rapporto simbiotico tra caserma da pulire, da sorvegliare, da difendere da un nemico ipotetico. Era come la fortezza Bastiani del tenente Drogo del deserto dei Tatri. Mai nessun nemico sarebbe venuto dall'altana su Tor di Quinto alla caserma dei lancieri di Montebello dove finì il soldato. C'era soltanto il via vai di fronte alle puttane che passavano lì per Tor di Quinto, ma io stavo lì con il mio fucile, con il mio Garand, arma della seconda guerra mondiale, pesantissimo, 6,5 kg, al freddo e al gelo, con la mantellina d'ordinanza, con i 6 proiettili calibro 7,62 nato nella giberna, a stare lì per paura che passasse un controllo e imbeccasse che magari stavo leggendo il giornaletto di Ertromba, una delle classiche letture da militare. Eppure quella era la meravigliosa vita militare. Questo film di Marco Risi rappresenta 365 giorni all'alba soldati, esattamente quello che era l'ufficiale tipo. D'apporto fa l'ufficiale che naturalmente non farà mai la guerra, andrà in pensione prima di avere occasione di aver mai fatto la guerra. È un soldato, vive soltanto in ragione della guerra, se no non farebbe il soldato, non ci prendiamo in giro. Quindi tutta la sua perizia militare, la sua aggressività, la sua voglia comunque di comandare plotoni gloriosi baciati dal sole della vittoria in fronte, è nel definire la posizione del piede nel riposo. Sì, perché la prima cosa che ti insegnano è attenti al riposo, due comandi molto semplici, poi si comincia a marciare. Allora, il riposo normalmente, tutti i soldati dei reggimenti più sfigati lo fanno con il piede sinistro avanti. I corpi speciali più paraculi, tipo i parà, fanno il riposo con i due piedi allineati. Quindi questo povero frustrato che dirigeva un battaglione bis, quindi era anche un sottordine di battaglione, in realtà voleva fargli fare il riposo come i corpi speciali, e qui si mostra la terrificante velleità del soldato frustrato in tempo di pace. Io ho cominciato a fare il militare nel settembre del 92, è stato un impatto un po' violento, perché comunque abituato alla vita normale, alla vita di ragazzino. Quell'epoca avevo 18 anni, 19 anni credo. Squadra! Il primo giorno del militare mi ricordo che ci hanno vestiti, in pratica, ci hanno messo in fila, erano delle file enormi, eravamo in tanti, era comunque una caserma per il CAR, l'addestramento, ma era pure una caserma punitiva, nel senso che mandavano là, in quella caserma mandavano anche persone che avevano combinato dei guai. Ora, un altro dei miti che aleggiava in noi poveri soldatini in tempo di pace era quello della caserma punitiva. Questo è uno dei nostri ascoltatori che ci ha lasciato la sua testimonianza di Naia. Io ieri ho messo in Facebook questa richiesta, ma vi ricordate di aver fatto un militare? Raccontatemi, sono arrivate centinaia di richieste. Questa mattina, per farvi contenti, ho messo in Facebook una foto che dimenticavo di aver avuto, è la foto del mio foglio matricolare, ci sono io vestito da soldato, una faccia spaventata, incazzatissimo, con in mano una tavoletta con i numeri di matricola, sembravo un galeotto pronto ad entrare nel braccio della morte. Beh, guardatevela e meditate su quello che era appunto il servizio militare. Dicevo, il battaglione punitivo, tutti noi ci facevamo belli con fidanzate, mamme, zie e nonne del fatto che eravamo in un battaglione punitivo. Ma punitivo non è che mica ci facevano camminare sotto la mitragliatrice crepitante o ci facevano prove terrificanti, ma punitivo semplicemente perché era vicino alle zone di confine. Allora, ancora non c'era stata la fine della guerra fredda, la caduta del muro di Berlino, tutto ciò che era da Roma in su veniva considerato punitivo perché era vicino al confine da dove sarebbero arrivati l'attacco comunque dei comunisti verso noi che facciamo parte naturalmente del blocco dei paesi amici della NATO. La nostra giornata tipo era, ci svegliavano alle 6, facevamo ovviamente la colazione, dopo l'alzabandiera subito a marciare, almeno 3-4 ore la mattina, sempre avanti e indietro, in lungo e in largo, con la richiesta di bere, di acqua, che certe volte anche ci negavano, però ci stava nel gioco, era l'addestramento, è questo. Sì, il pomeriggio era durissimo perché dopo aver pranzato ci infilavano dentro la sala, insomma era un po' dura la cosa. Mi ricordo che finita l'esercitazione, ovviamente la lezione più che altro, si ricominciava nuovamente. Tutto il corso addestramento record era mirato ad insegnare all'eretto a marciare, schierati e ben serrati nei ranghi per la cerimonia del giuramento. Cioè un mese, io ho fatto 2 mesi perché era un CAR avanzato che poi sarei stato mandato a una scuola di specializzazione a San Giorgio a Cremano, specializzazione in telecomunicazioni. Mi hanno dato le vecchie radio americane della Seconda Guerra Mondiale e feci un corso anche di trasmissione e ricezione Morse, ma era l'anno che c'era stato il terremoto ad Avellino, quindi noi eravamo impiegati in operazioni di soccorso a terremotati, cioè in pratica andavamo a far finta, mi ricordo con delle carriole facevamo una bellissima muina, di mettere del brecciolino nelle ghiaie di questi container dove stanno i terremotati, che ci tiravano sassate così per passare il tempo, lo sono lì dentro, le televisioni, mi ricordo, i primi videoregistratori, con delle bellissime macchine, ricordo questi particolari proprio. E noi lì soldatini con la carriola ci eravamo messi d'accordo, allora tu prendi la carriola, la riempi di brecciolino, la porti qui, poi arriva un altro con la pala, la vuota, poi dopo arriva un altro, la riempi nuovamente, torniamo indietro, così passiamo al nostro turno. E questi ragazzini per passare il tempo ci prendevano a sassate e noi non potevamo reagire. La cena a Turmone era immangiabile, non era fattibile, poi specialmente abituati alle mani della mammina, ricordo che c'erano queste specie di sofficini durissimi, scaldi fuori e freddi dentro, che erano proprio immangiabili completamente. Mi ricordo benissimo il marchio della carne con scritto per esempio 1971, impresso sulla fettina di carne durissima che ci davano, chissà da quanto tempo era congelata quella carne. Naturalmente noi tutti figli di mamma ci lamentavamo per la prima cosa del cibo. Il cibo del servizio militare, soprattutto al CAR, non era niente di che. C'era questa leggenda che circolava che i marescialli maggiori, maresciallo capo, i marescialli ordinari prendessero grandi derrate alimentari delle cose migliori e se le portassero a casa, ma in realtà io non ho mai visto cose del genere. È vero, c'era questa carne argentina con dei timbri antelucani. Bello mangiare una bistecca a 20 anni, è come avere una bottiglia di Barbera dannata, e noi ci mangiavamo queste suole di scarpe, ma io non mi sono mai molto lamentato. Squadra! Ricordo che una volta ho fatto la curva cucina, mi avevano assegnato a pulire le pentole. Terribile, proprio chi non ha stomaco secondo me non può mai fare una cosa di questo genere. Mangiavano praticamente almeno due compagnie formate da almeno 200 persone a compagnia, ma poi pentoloni, non è che pentoloni normali, quello così, erano proprio i pentoloni giganti messi in queste vasche in ceramica bianca, tutte che tu dovevi pulire, si lavavano a mano le pentole del giorno prima, quindi odori nauseabondi, proprio terribili, parte la nostalgia di casa eccetera eccetera, queste cose normali che sono sentimenti che uno può provare. Secondo me questa è la cosa più terribile che ho provato, stare a contatto con il cattivo odore, con la sporcizia, con le cose sporche, con gli scarafaggi che poi giravano. Diciamo che la Naja era l'unica occasione che aveva, un giovane ben pasciuto, nato negli anni del boom economico, cresciuto negli anni di piombo, ma sempre protetto dall'amorevole consenso dei propri genitori, della famiglia, degli amici, delle circostanze meno drammatiche dell'esistenza, di capire e comprendere che il mondo è fatto anche di scarafaggi, è fatto anche di puzze, soprattutto di conoscere persone che mai avrebbe conosciuto nella sua banale quotidianità esperienza di vita. Io ho conosciuto persone che nemmeno immaginavo che esistessero, perlomeno in quell'epoca della mia esistenza. Ricordo esseri che ancora erano analfabeti, miei coetanei analfabeti, e andavano al corso gratis per prendere la licenza elementare e imparare a leggere e a scrivere perché c'era una maestra. C'era una maestra, una signora tranquillissima di oltre 50 anni, però rappresentava l'apice di tutti gli immaginari erotici di quei soldati, perché di donne se ne erano poche in caserma naturalmente. Quindi molti forzavano il loro analfabetismo culturale in realtà per compensare l'analfabetismo relazionale. Tra un istante, dopo le informazioni sul traffico, con l'ultima tranche dei meravigliosi e fantasmatici ricordi della Naja sparita. Melog. Cronache meridiane. Troppo magro, rivedibile. Ehi, tu hai bisogno di bistecche? Troppo grasso, rivedibile. La bistecca è tua e passerà a lui. Hai finito di fare le pulizie? E stai su, gli attendi! E che siamo in discoteca, qua stiamo! E vado a tagliare i capelli che fa schifo! Guardate. Madonna benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaiazza sotto tutti i punti di vista. Torace, altezza. Vieni l'anno prossimo, ritorna dentro il loculo. Ti sei già tagliato i capelli? Sono un gemello. E io sono Capricorno, che vuoi? No, sono un gemello di mio fratello. Ah. Siamo gemelli. Ah, sì. E mo sono chezzi vostri. Idonei, idonei. Ci vediamo. Sergente, tutti via, gli unici due idonei sono i due gemelli. Signor sì! L'avventura del servizio militare iniziava qualche anno prima della partenza con i 3 giorni fatti al distretto militare della propria città. Qui si inizia il primo impatto con una realtà che è quella che ci strappava velocemente, radicalmente, dalle braccia della nostra mamma, del nostro lettino ben fatto tutte le sere, degli agi di casa nostra. Ci rendevamo conto che il mondo era anche diverso. Mi scrive Maurizio su Facebook: buongiorno Gianluca, si capisce dal tuo racconto che la naja la può capire soltanto chi l'ha fatta, e l'ha fatta Maurizio a Savona anche lui. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a te caro, anno 1981, terzo 81 in quel del mitico Blini, come veniva chiamata la nostra che caserma. Non c'è più, mi sembra, l'hanno smantellata 15 anni fa totalmente. Ci passa un cavalcavia dell'autostrada, ma io passai proprio i giorni, neanche farlo apposta, i giorni che la stavano demolendo, e ho visto parte della mia gioventù, ahimè un mese della mia gioventù, che se n'è andata. Quei bei corridoi, quelle belle camerate con la densa sui vetri che la mattina raccoglievamo secchiate e non capivamo se era una perdita d'acqua, ma ahimè era il nostro vapore acqueo che condensava. Quella piccola palestrina dove io facevo l'allenatore di pallavolo, perché ho fatto l'allenatore di pallavolo, quella piccola palestrina è quel mitico alzabandiera di tutte le mattine che ci faceva gridare il duro, se si può dire, anziché lo giuro. Ah sì, quella era la facezia che tutti ci preparavamo a questo giorno del giuramento, giurando a noi stessi avremmo detto lo duro invece che lo giuro, però lo giuro. Nessuno lo fece realmente, perché no, io giurai con lo giuro. Poi te ne venne male per il resto della vita, immagino. Il tiro di Albenga a Terra Rossa, che i primi quattro proiettili sparati per terra alzavano un polverone. Ah, è vero, io ricordo, guarda, ho un ricordo bellissimo. Si andava a sparare una volta in due mesi, ti portavano in riva al mare in mezzo a un fangaio terrificante e ti davano tre colpi, sparavi contro l'orizzonte del mare, non so perché, con la mitragliatrice, occhi chiusi, avevi finito. Io dovevo partire in licenza proprio quel giorno lì, e mi ricordo partii ancora con le scarpe piene di fango, ma io tornavo dopo due mesi a casa dalla mia allora fidanzata, e immagino che fu un viaggio molto lieve quello. Tra l'altro c'era proprio un cattivo rapporto tra i savonesi e noi militari, e a quei tempi c'era Pertini Presidente della Repubblica, savonese, noi pensavamo di essere così meglio considerati, e invece niente. Tutte le volte che arrivava Pertini a Savona schieravano il plotone dei più belli ad aspettare che scendesse Pertini dalla macchina, dopodiché rientravano, e quel giorno, ahimè, si faceva festa in caserma, per modo di dire. Si davano la pastrella, che era un tristissimo diplomatico asfittico, che era la peggiore delle paste che esistano nel carré di paste, il diplomatico, la pasta a strati. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto tre commilitoni napoletani pizzaioli che approfittarono di quella forno a legna che c'era dentro del nostro circolo dei soldati, col permesso del famoso ai miei tempi tenente colonnello Mariano, furono autorizzati a fare la pizza per noi soldati, tant'è vero che siamo usciti una volta sola per Savona, siamo stati metà randellati per una settimana. Devo segarti, basta, se no dopo mi viene una lacrima agli occhi. Invece Giuseppe Colella ha fatto il servizio militare in un ospedale militare, quindi potrebbe dirci qualcosa forse sugli espedienti per riuscire a passare indenni, cioè riformati, la vista di leva. Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno anche a te. Ne hai viste di cose? Sì, praticamente io credo che ognuno di noi abbia avuto nella propria caserma qualcuno che partiva per questo fantomatico ospedale militare con la speranza di farsi riformare. Io ero lì all'accettazione, anche perché ero l'unico che, non dico che sapesse usare il computer, ma lo sapesse accendere, e parliamo di 95, non parliamo del 70. Ebbene, qui si arrivavano e come messaggio di benvenuto, la prima cosa che facevano è si lanciavano con forza verso di me, cercando di aggredirmi. Ah, facevano i matti, sì. Sì, assolutamente, era il loro obiettivo. Comunque io ricordo, perlomeno per la mia generazione, diversi erano gli stratagemmi. I più duri, ma che nessuno eseguiva, era dire: bisogna ghiacciarsi il dito di una mano con l'accendino, infilarlo in una bottiglia di Coca-Cola, sbatterlo così si spezza il dito e ti riformano, cosa che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di fare. Poi c'era la soluzione, dice, fingersi matto, fingersi gay, però dopo te lo scrivono, non so, perché in quale rimaneva indelebile, assolutamente. Rimaneva indelebile, e di fronte a questa cosa uno naturalmente non la faceva mai. Stava indietro, chiaro. Guarda, io ho visto due persone che hanno fatto le cose peggiori, diciamo, quelli con le dita spezzate arrivano tutti i giorni. Ah, quindi se le spezzavano davvero? Sì, assolutamente. Però poi non serviva a nulla, perché in realtà mettevano il gesso e riprendevano 5 o 10 giorni dopo, perché non era invalidante. Comunque vabbè, ma i peggiori, cioè uno si spezzava inutilmente un dito, pensate, si spezzavano gli arti addirittura, cioè pur di non fare il militare, esatto, si spezzavano volontariamente il polso, era uno dei posti più preferiti, perché in realtà una volta spezzato non dava dolore. Mentre invece tutti gli altri ossa, toccando e sfregando, si potevano dare dolore. Poi cos'altro facevano? Qual è l'altro espediente per non fare la naia? Che poi non è che andavano in guerra, andavano a fare il militare in caserma. Esatto. E poi la cosa peggiore era quella di denudarsi, defecare all'interno dell'accettazione, cioè far vedere a tutti quanto fossero fuori di testa. In realtà poi alla fine il 90% di questi venivano tranquillamente rispediti in caserma dopo 3-4 giorni. Tante cose passati in un ospedale militare che era una peggio della caserma di come loro la conoscevano, perché se il cibo faceva schifo in caserma, chi garantisce che quell'ospedale militare è una roba fuori dalla grazia di Dio. Daniele, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Tu hai raggiunto l'obiettivo che mai nessun militare sogna di raggiungere, sei stato con la figlia di un capitano. Esatto, sì, incredibile. Poi come hai fatto a farti? Il tuo ospite attualmente ha raccontato un po' di quello che mi è successo. Io ho vissuto anche io in una caserma terribile in Calabria, io Brianzolo, bellino, ragazzino, giovane, 18 anni, mi hanno spedito lì, non so il motivo, sinceramente, vabbè, ho vissuto un paio di mesi terribili perché ero un CAR, poi io ero stato nominato caporale maggiore istruttore, quindi continuavo in questa caserma, che notoriamente le caserme di CAR sono peggiori di quelle... Sì, ma non ci girare intorno, vai al punto, sì. No, ecco, come te la sei fatta questa figlia del capitano? Ho conosciuto questa ragazzina che si è innamorata di me. Ragazzina che vuol dire? Quanti anni aveva? Aveva la mia età, aveva 18 anni, io 19 donna anni. Adulta, sì. Sì, la ragazza. Maggiorenne, ecco questo, no, per tranquillizzarci. Maggiorenne, sì, sicuramente. E si è innamorata di me. Si è innamorata di me in questa, in una maniera così folle, probabilmente non ha seguito i consigli della tua ospite. Beh, quello era un generale, ne sapeva di più di un capitano. E sono entrato in grazia, stranamente, anche del capitano, perché... Eri un buon partito, piaciuto. Quindi. Sì, ma no, ma era un po' un ragazzino molto per bene. Però non l'hai sposata. No, ma da quella volta magia, ho saltato tutte le fatiche del campo e addirittura ho fatto il bagnino in un laghetto a Camigliatello Silano, che è una zona dove poi vanno in estate le signore, le famiglie di questi ufficiali, e ho fatto addirittura il bagnino che io non ero, cioè proprio di bagnino non avevo nulla. Sì, guarda, sembra quasi un incredibile aneddoto di un film con Alvaro Vitali e Edwige Fenech. Penso che sei una delle poche, se non l'unica persona che ha questo ricordo di naia, di poter essere stato fidanzato, no, con la figlia del capitano e aver avuto oltre a questo tutti i vantaggi possibili e immaginabili. Esatto, però dopo averla conosciuta, prima confermo tutto quello che hanno detto gli altri ascoltatori, c'è una cosa disumana, anche se comunque di notevole esperienza, perché mi ha cambiato. Io sono entrato bambino e sono uscito tra virgolette metto, ecco, con tanti vantaggi che la vita richiede. Non mi sembra che per te sia stata poi una prova così massacrante, ma in una fase cruciale della nostra educazione culturale, musicale, sentimentale, alcuni divi della canzone, che erano come noi, bravi, buoni ragazzi, buona famiglia, usarono il momento del servizio in leva come fantasmagorica occasione per proclamare se stessi. Questo ce lo racconta Domenico Liggeri. Domenico, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno a te. Allora, autore, regista, giornalista, critico musicale, autore di libri su videoclip, su canzoni, su temi musicali. Io mi ricordo Celentano e Gianni Morandi in divisa. Mi puoi dare qualche elemento in più di quegli anni, di quegli artisti? Ma il precursore si può dire sia stato in qualche modo Elvis Presley, se ti ricordi. Ah certo, naturalmente. Era un modo per spegnere la trasgressione della musica. Elvis Presley era nato facendo scandalo, come ricorderanno tutti. Nel momento in cui fu chiamato a fare il servizio militare, non solo a divisa e servì il paese, in qualche modo ripulì la sua immagine e fu amato anche dalle mamme. Per i nostri artisti questo problema si poneva meno, perché parlare di trasgressione, magari per Celentano sì, ecco, per Morandi decisamente meno, però era un modo veramente per farsi amare dalle famiglie in qualche maniera. Innanzitutto era un'idea creativa che veniva di... Senti, Morandi fece anche un musicarello in divisa, io me lo ricordo. Infatti diversa, ha fatto tutta la serie in ginocchio da te e compagnia, di quella serie di canzoni, ma perché in fondo per fare musicarelli serviva anche un'idea. Se per Caterina Caselli fu fare la cassiera ai grandi magazzini o la commessa, per i maschietti era un po' difficile immaginare dei ruoli romantici, e cosa di più romantico di un soldato. Quindi la realtà, cioè il fatto che veramente Morandi dovesse fare il servizio militare, fu un'ispirazione per una serie di film, quindi venne incontro a un'esigenza di soggettisti in crisi creativa che non sapevano come incasellare un ragazzo che fondamentalmente invitava a un grande consumo di latte, e alla fine questa cosa creava una perfetta sintonia con il pubblico, perché lui così giovane, così imberbe, creava questa forma di tenerezza. Le sue canzoni erano perfettamente in linea con il cuore di mamma, di tante mamme che avevano i propri figli a distanza di centinaia di chilometri. Insomma, metteva d'accordo la famiglia e anche quelle fidanzatine abbandonate dai fidanzati e andate in divisa dall'altra parte d'Italia, perché come ricordate c'era questa abitudine, no, di spedire di solito le persone a fare la naia da una parte all'altra della penisola. E questi film erano in grado veramente di unire dal papà alla mamma, alla figlia, al fidanzato e quant'altro, ed era una prima forma di unione nazionale popolare che poi verrà raccolta. Io mi rendo conto, Domenico, ti ringrazio che siamo arrivati proprio in sigla, che chiaramente personaggi come Morandi mettevano insieme queste due Italie, l'Italia della passione, degli aspetti familiari, e l'Italia comunque doveva affrontare questo momento particolare di uscita dalle braccia materne. Ma io mi rendo conto, questo è un argomento che meriterebbe secondo me un ulteriore approfondimento, che proprio in coda adesso, e non faccio in tempo a farlo parlare, lo cito soltanto, ma potrebbe diventare l'inizio di una nuova trasmissione sul servizio militare. Mi telefona Maurizio e vorrebbe raccontare la sua singolarissima esperienza di un colonnello che si era innamorato di lui. Ma ci sospendiamo, ci fermiamo qui. Sul colonnello innamorato e sulle storie di Naya, forse un giorno torneremo.